Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Nella vita è importante che ogni cosa abbia una giusta conclusione. Solo così si trova la pace. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Vita di Pi, di Ang Lee. Cresciuto fra gli animali dello zoo di famiglia, il giovane Pi Patel è costretto a lasciare l'India per trasferirsi, assieme ai genitori, al fratello e ad alcuni animali dello zoo, in Canada. Durante il viaggio, il mercantile che li trasporta è travolto da una terribile tempesta e affonda, portando con sé l'equipaggio, gli animali e la famiglia di Pi. Sull'unica scialuppa di salvataggio che resiste all'oceano in burrasca, trovano posto Pi, una zebra, una iena e la gigantesca tigre, Richard Parker. Audiogrammi in radio come al cinema. Pisin Molitor Patel, P, viveva in Canada, a Scarborough. Aveva una moglie e due figli. Era un uomo piccolo e snello, 1,65 m di altezza, occhi e capelli scuri, un po' di grigio sulle tempie, carnagione di un gradevole color caffè. Aveva il viso espressivo, parlava veloce, gesticolando, niente convenevoli. Passava subito al dunque. Pensavo che suo padre fosse un matematico, visto il suo nome. No, tutt'altro, mi hanno dato il nome di una piscina. Esiste una piscina di nome Pi? Vede, mio zio Francis, quando nacque aveva molta acqua nei polmoni. Dicono che i dottori presero Francis per le caviglie e lo rotearono per togliere l'acqua. E per questo gli venne un torace enorme e le gambe magrissime, facendo di lui un grande nuotatore. Francis è veramente suo zio? Ha detto di essere amico di suo padre? Oh, lui è uno zio onorario, lo chiamo Mama G. Stava per dirmi come ha avuto il suo nome, se non sbaglio. Ah sì, l'ho avuto per via di qualcosa che Mama G disse una volta a mio padre. Vede, molti viaggiatori collezionano cartoline o tazzine durante i viaggi, ma non Mama G. Mama G colleziona solo piscine. Lui va a nuotare in tutte le piscine che trova. Un giorno Mama G disse a mio padre che di tutte le piscine che c'erano al mondo la più bella era la piscina pubblica di Parigi. Che l'acqua era talmente pulita che potevi prepararci il caffè la mattina, che una sola nuotata lì aveva cambiato la sua vita. Prima che io nascessi, lui disse: se vuoi che tuo figlio abbia un'anima pulita, un giorno dovrai portarlo a nuotare alla Piscine Molitor. Non ho mai compreso perché mio padre prese la cosa tanto a cuore, ma lo fece e mi chiamò Piscine Molitor Patel. Pi era un uomo molto gentile. Andai a trovarlo per sentire la sua storia e ad ogni visita trovavo ad attendermi un banchetto di specialità vegetariane del sud dell'India. Mamma Gino mi ha detto tutto, mi ha detto solo di cercarla quando sarei tornato a Montreal. E che cosa ci faceva Pondicelli? Scrivevo un romanzo. Tra parentesi, mi è piaciuto il suo primo libro. Allora questo nuovo è ambientato in India? No, in Portogallo in realtà, ma costa meno vivere in India. Ah, bene. Non vedo l'ora di leggerlo. Non può. L'ho buttato via. Per 2 anni ho cercato di tenerlo in vita e poi un giorno ha sputacchiato, tossito ed è morto. Oh, mi dispiace. Dunque, ero seduto in questo bar a Pondicherry un pomeriggio. Ero amareggiato per la mia perdita quando un vecchio al tavolo accanto ha cominciato ad attaccare bottone. Sì, ma ci fa queste cose. Quando gli dissi che avevo abbandonato il mio libro, lui replicò: allora, un canadese è venuto nell'India francese in cerca di una storia, bene amico mio. Conosco un indiano nel Canada francese con la più incredibile di tutte le storie da raccontare. Deve essere destino che tu e lui vi incontriate. Beh, non parlo di Richard Parker da moltissimi anni. E mi dica, Mamma G, che cosa le ha già detto? Ha detto che lei ha una storia che mi farà credere in Dio. Lui lo direbbe anche di un buon pranzo. Riguardo a Dio, io posso raccontarle la mia storia. Poi deciderà lei stesso che cosa credere. Mi pare giusto. Allora vediamo, da dove comincio? Pondicherry è la riviera francese dell'India. Nelle strade a ridosso dell'oceano ti sembra di trovarti nel sud della Francia. I francesi ci restituirono Pondicherry nel 1954 e la città decise che questo richiedeva una commemorazione. A mio padre, che era un astuto uomo d'affari, venne in mente un'idea. Gestiva un albergo e decise di aprire uno zoo proprio dentro il giardino botanico della città. E guarda caso, mia madre lavorava come botanica nel giardino. Si conobbero, si sposarono e un anno più tardi nacque mio fratello Ravi. Io arrivai 2 anni dopo. A proposito della sua religione, mi disse: nessuno di noi conosce Dio finché non ce lo presentano. Io fui presentato a Dio come indù. Esistono 33 milioni di dei nella nostra religione, quindi devo conoscerne qualcuno per forza. Conobbi Krishna per primo. Gli dei furono i supereroi della mia infanzia. Hanuman, il dio scimmia, che staccò una montagna intera per salvare il suo amico Lakshman. Ganesh, con la testa di elefante, che rischiò la vita per difendere l'onore di sua madre Parvati. Vishnu, l'anima suprema, l'origine di ogni cosa. Vishnu dorme fluttuando sopra lo sconfinato oceano cosmico e noi siamo il risultato dei suoi sogni. Fu la madre ad avvicinarlo all'induismo, unico elemento che la teneva collegata alla sua famiglia di origine, che l'aveva emarginata perché aveva sposato un uomo al di sotto del suo ceto sociale. Appa, il padre di P, si diceva invece parte di una nuova India e non credeva nella religione, ma insisteva nell'importanza della razionalità e della scienza, che lo aveva salvato dalla poliomielite. P raccontò poi di aver conosciuto anche Cristo e, parlando con un prete, si era sempre più interessato al mistero del suo sacrificio e della sua morte. Se Dio è così perfetto e noi non lo siamo, perché ha voluto creare tutto questo? Perché avrebbe bisogno di noi? Quello che devi sapere è che lui ci ama. Dio ama questo mondo a tal punto da sacrificare suo figlio. Più ascoltavo il prete, più cominciava a piacermi questo figlio di Dio. Grazie, Vishnu, per avermi fatto conoscere Cristo. Ma la sua ricerca non finì e si avvicinò anche ad Allah. Allahu Akbar. Il mio arabo non è mai stato molto buono, ma il suono e il senso delle parole mi avvicinarono a Dio. Nel praticare il Salaha, il suolo che toccavo diventava sacro e cominciai ad avere una sensazione di serenità e fratellanza. Per la sua famiglia, la sua adesione a più religioni era fonte di diverse discussioni. Devi convertirti solo ad altre 3 religioni, Pissin, e trascorrerai il resto della tua vita in vacanza. Andrai alla Mecca quest'anno, Suami Gesù, o a Roma per la tua incoronazione come Papa Pio? Non ti intromettere, Ravi. Proprio come a te piace il cricket, Pia i propri interessi. No, Gita, Ravi dice bene, no? Non puoi seguire 3 diverse religioni contemporaneamente, Pissin. Perché no? Perché voler credere in tutto allo stesso momento corrisponde esattamente a non credere in niente. È giovane, Santosh. Sta ancora cercando la sua strada. E come riuscirà a trovare la sua strada se non sceglierà un cammino? Ascoltami, invece di saltellare continuamente da una religione all'altra, perché non cominci con la ragione? In poche centinaia di anni la scienza ci ha fatto capire l'universo più di quanto la religione non abbia fatto in 10.000 anni. Questo è vero. Tuo padre ha ragione. La scienza può insegnarci molto del mondo esteriore, ma non di quello che c'è qui dentro. Sì, alcuni mangiano carne, altri mangiano verdure. Non mi aspetto che tutti concordino su tutto, ma preferisco che tu creda in qualcosa con cui io non concordo, piuttosto che accettare tutto ciecamente. E questo comincia col pensare razionalmente. Mi sono spiegato? Io vorrei ricevere il battesimo. P era cresciuto in uno zoo. Raccontò che suo padre aveva fatto di tutto per fargli capire che un animale è un animale e non fargli rischiare la vita con qualche bestia. Un giorno lui e il fratello sgattaiolarono verso la gabbia di Richard Parker, la nuova grande tigre del Bengala, cercando di farla avvicinare offrendole qualche pezzo di carne. Dai, vieni, Richard Parker. È per te. P fece avvicinare la tigre fino a pochi centimetri dalla sua mano, ma il fratello, spaventato, scappò e andò a chiamare suo padre, che si spaventò a morte per quello che P aveva rischiato e decise di dargli una lezione. Fece chiamare il guardiano ordinandogli di portare una capretta e la fece legare accanto alla gabbia della tigre. In pochi secondi calò il silenzio, rotto solo dai belati della capra e dal rumore dei suoi zoccoli. Con un salto e una zampata, la tigre l'aveva presa, uccisa e trascinata dentro la gabbia. Email audiogrammi @radio24.it. Vi stiamo raccontando Vita di P di Ang Lee. P continuò il suo racconto e mi spiegò che a metà degli anni 70 l'India attraversava un brutto periodo. Mi disse che lo capiva dalle rughe profonde che solcavano la fronte del papà quando leggeva i giornali, dai frammenti di conversazione fra i suoi genitori. Era in grado di comprendere quello che dicevano, però in quel periodo non gli interessava più di tanto. Hai sentito cosa sto dicendo? P. Scusa, tu sei... preoccupato. Per la mia famiglia. I nostri animali hanno molto più valore all'estero che qui in India. E se il Consiglio Comunale smette di appoggiarci, non so che fine faremo. Perciò non abbiamo nessun'altra scelta. Mi sono spiegato? Aspetta, di cosa stiamo parlando? Lasceremo l'India. Cosa? Vendiamo lo zoo. Ma dove andremo? In Canada. Ho delle buone opportunità di lavoro a Winnipeg. Spedirò gran parte degli animali nel Nord America e li venderemo. E tutta la famiglia potrà imbarcarsi sulla nave merci. È deciso. Navigheremo come Colombo. Ma Colombo stava cercando l'India. Ci volle molto tempo per vendere lo zoo. Partirono da Madras il 21 giugno 1977 a bordo del mercantile giapponese Tsim Tsum, che batteva bandiera panamense. Somministrarono i sedativi agli animali, caricarono e fissarono le gabbie, misero via le provviste, assegnarono le cuccette, lanciarono le cime e suonarono le sirene. Durante il viaggio fu il padre a occuparsi degli animali, anche se non lo aveva mai fatto direttamente. Non preoccuparti. Perché dare dei calmanti a Orange Juice? Lui non causerà nessun problema. Il viaggio è fonte di stress, non fa bene agli animali. Li aiutano a superare il mal di mare. Non credo che vogliamo star qui a pulire il vomito di un orangotango con la nausea. Non è così? Sulla nave gli ufficiali erano giapponesi, l'equipaggio di Taiwan e la nave immensa e imponente. Il primo impatto con l'equipaggio fu col cuoco, una persona orribile che se ne infischiava del fatto che non potessero mangiare carne, derideva sua madre e aveva fatto quasi a botte con suo padre, lasciandoli senza mangiare. Vegetariano, per favore. Oh, i miei figli ed io siamo vegetariani, non avete niente? No. Non metta il condimento. Non vuole il condimento? No. Je voudrais un plat végétarien. Un marinaio si avvicinò per consolarli. Salve, io sono buddista felice e posso mangiare riso, vicino o condimento? Condimento non è carne su nave, è sapore. Per giorni la nave aveva seguito la sua rotta, ostentando indifferenza verso tutto ciò che la circondava. Una notte, mi raccontò P, stava dormendo e qualcosa lo svegliò, un rumore più forte degli altri, forse un'esplosione, il rumore di una tempesta. Sto dormendo. È una tempesta, andiamo a vedere. Sei impazzito. Saremo colpiti da un fulmine. No, ma che dici? Colpirà prima il ponte. Non sfidare la tempesta, Pi. Decise di salire in coperta a vedere. Le onde si arrampicavano sempre più in alto e la schiuma bianca, catturata dal vento, sferzava il fianco della nave. Lo spettacolo era esaltante e lui si sentiva sempre più intrepido, scivolando a destra e a sinistra per le onde. Più pioggia! Più pioggia! Signori delle tempeste! La nave si stava inclinando sul fianco sinistro. P fu attraversato da un brivido. Doveva trattarsi di una vera tempesta. Corse verso la porta e la aprì. Corse giù 4 gradini alla volta. Mancava un piano alle cabine dove dormiva la sua famiglia quando vide l'acqua. Tantissima acqua, che aveva allagato le cabine e che lo investì. Mamma! Mamma! Rami! Uscite fuori! La tempesta non era più uno spettacolo divertente. P era terrorizzato. Ormai era ovvio. La nave si stava inclinando in modo allarmante. E non solo su un fianco. Anche la prua era sollevata. 20 metri scarsi separavano il parapetto dal mare. La Tsim Tsun stava affondando. Dove erano gli ufficiali? E l'equipaggio? Vide le sagome di alcuni uomini a prua. Correvano nel buio. Gli parve di scorgere alcuni animali, senza dubbio un'illusione dovuta ai lampi e alla pioggia. Udì delle grida levarsi dal ponte. Le onde erano sempre più vicine. Colavano a picco inesorabilmente. Corse verso le scale che conducevano al ponte di comando. Era lassù che stavano gli ufficiali. Al suo grido si voltarono. Si scambiarono un'occhiata, dissero qualche parola e si avvicinarono. Un marinaio gli cacciò fra le braccia un giubbotto salvagente dal quale penzolava un fischietto arancione. Lo afferrarono e lo gettarono sulla scialuppa di salvataggio. Guardò in alto. Due uomini gridavano gesticolando freneticamente verso di lui. Si aspettava che saltassero a bordo, invece si voltarono con espressione terrorizzata e un attimo dopo vide una creatura spiccare il balzo e librarsi per aria con la grazia di un cavallo da corsa. Era una zebra di Grant, un maschio di 225 kg. Mancò l'incerata, atterrò sull'ultima panca con un tonfo assordante e la fracassò, facendo vacillare l'intera scialuppa. Il lamento che le sfuggì di bocca lo impressionò. La scialuppa fendette l'aria e cadde nel mare in burrasca. La nave affondò con un rumore simile a un mostruoso rutto metallico. Gli oggetti gorgogliarono a pelo d'acqua e poi svanirono. Tutto gridava: il mare, il vento, il cuore di P. Dalla scialuppa di salvataggio intravide una sagoma tra le onde. Si dimenava per restare a galla. Ehi! Da questa parte! Da questa parte! Lo aveva visto. Faticosamente cominciò a nuotare verso di lui e la scialuppa. L'acqua si agitava e ribolliva tutto intorno. Sulla barca c'era un salvagente legato a una fune. P lo afferrò e lo tirò in acqua. La sagoma si aggrappò. P tirò la corda del salvagente e gli avvicinò un remo per aiutarlo a salire sulla scialuppa. All'improvviso si rese conto di chi stava aiutando, di quello che stava facendo. Richard Parker! No! No! No! Vattene via! Vattene via! Oh! Troppo tardi. Aveva raggiunto la scialuppa e si era trascinato a bordo. Ora, sulla scialuppa di P, c'era una tigre del Bengala adulta, fradicia, tremante e mezza annegata, che ansimava e sputava acqua di mare. Era Richard Parker. si alzò barcollando sulla tela cerata. P si girò, scavalcò la zebra e si gettò in acqua. Il remo che aveva lanciato per aiutare la tigre galleggiava poco distante. Si aggrappò e afferrò anche il salvagente lasciato libero dal precedente occupante. L'acqua lo investiva e lo accecava spingendolo verso il basso. Respirava a fatica. Poi, 5 metri più in là, vide un triangolo che tagliava l'acqua. La pinna di uno squalo. Nuotò disperatamente verso l'estremità della scialuppa ancora coperta dall'incerata. Intravide la testa della zebra che si agitava all'estremità opposta della barca. Colto da un'ispirazione improvvisa, alzò il remo e lo infilò tra la prua e l'incerata, nel piccolo varco che gli avrebbe salvato la vita. Spinse il remo finché non sembrò un pennone sbilenco proteso sopra le onde e ci si avvinghiò con braccia e gambe. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Era fuori dall'acqua, fluttuava a meno di un metro dalle onde più alte. Poi gli venne un'idea. Recuperò il salvagente dall'acqua, lo appese al remo e ci si infilò dentro, in modo da poter rimanere appeso a sostenersi con le sole gambe. Era orfano e solo, aggrappato a un pezzo di legno nel mezzo del Pacifico. Di fronte a lui, una tigre, sotto di lui gli squali e tutto intorno gli elementi impazziti. Cercò la sua famiglia, un sopravvissuto, un'altra scialuppa, qualsiasi cosa potesse ridargli un po' di speranza. Niente. Solo la pioggia, le onde rapaci dell'oceano scuro e i rottami galleggianti della tragedia. Mi dispiace! P capì che non poteva rimanere in quella posizione per sempre. Aveva freddo, il suo collo indolenzito faticava a sostenere la testa. Anche la schiena gli doleva, schiacciata contro il salvagente. Si aspettava che da un momento all'altro la tigre Richard Parker si avventasse su di lui. Si alzò in piedi e lanciò un'occhiata al capo opposto della barca. Non riusciva a crederci. La zebra era ancora viva. Giaceva in una goffa posizione vicino alla poppa. Era distesa su un fianco, la testa e il collo appoggiati sulla panca laterale. Una delle zampe posteriori era rotta. Di tanto in tanto l'animale ferito scuoteva la testa, mugolava e sbruffava. Per il resto, silenzio. Ancora più sorprendente era che Richard Parker non l'avesse ancora uccisa. Forse non era più sulla scialuppa. Probabilmente era caduto in mare ed era annegato. Improvvisamente una testa spuntò all'estremità dell'incerata. Guardò P con uno sguardo diretto e spaventato. Si nascose, rispuntò. Era la testa stempiata di una iena maculata. Tentò subito di avvicinarsi e di mordere P, ma non riuscì a salire sull'incerata. E P ne approfittò per tornare aggrappato al remo. Sembra che i calmanti stiano ancora facendo effetto. Oran Juice arrivò fluttuando sopra un'isola di banane, circondata da un alone di luce, leggiadra come la Vergine Maria, il sollevante alle sue spalle e il fulgido pelo fiammeggiante. Oran Juice era uno splendido orango del Borneo, star dello zoo, nonché madre di 2 splendidi maschi. Le banane su cui galleggiava erano tenute insieme da una rete di nylon. Oran Juice pareva annebbiata. I suoi movimenti erano lenti ed esitanti. Nei suoi occhi si intuiva una confusione mentale e uno stato di shock profondo. Benvenuto sull'Arca di P. Dov'è tuo figlio, Oran Juice? Non preoccuparti. Scommetto che mamma e papà l'hanno trovato. Presto saranno tutti qui. P teneva un occhio puntato sull'orizzonte e l'altro sull'estremità opposta della scialuppa. Iena a parte, gli animali erano silenziosi. Ehi! La iena ricomparve. Prima corse nervosamente, girando agitata e saltando su tutte le panche della barca. Poi si arrestò e vomitò. Ma il timore di P restava. Le iene non sono pavide mangiatrici di carogne. Per questi animali la giornata comincia quando spunta la luna. Solo allora si rivelano cacciatori spietati. Calò il buio. Le nuvole nascondevano le stelle. P non riusciva a distinguere il profilo delle cose. Teneva gli occhi fissi su quello che credeva l'orizzonte e le orecchie allerta, pronte a captare eventuali segni di attività da parte degli animali. Non aveva la minima idea di come avrebbe fatto a superare la notte. No! Smettila! No! A un certo punto udì la iena ringhiare e la zebra emettere grida stridule. Apparentemente la iena, quella creatura infernale, era disposta a lasciare in pace P, almeno per il momento. Ma per la zebra non fu lo stesso. No! Per la prima volta P si domandò come avrebbe fatto a nutrirsi. Non aveva bevuto una sola goccia d'acqua, né mangiato un boccone, né dormito un solo minuto negli ultimi 3 giorni. Ricordò di essere a bordo di una scialuppa di salvataggio regolamentare, quindi necessariamente fornita di provviste. Non appena scostò il lembo dell'incerata, capì che era proprio come aveva sperato. Provviste! Provviste! Credette di svenire per la gioia. Il ripostiglio risplendeva di una varietà di oggetti nuovi di zecca. Prese un libretto di istruzioni, studiò gli oggetti. Sopravvivenza in mare. Una zattera. Avrebbe costruito una zattera. I remi galleggiavano. In più c'erano i giubbotti di salvataggio e un salvagente robusto. Col fiato sospeso, prese i remi dalle panche laterali. Li infilò nelle maniche dei giubbotti in modo da fissarli ai 4 angoli della zattera. Legò tutto con una fune. Ma mentre cercava di fissare l'altra estremità della fune alla zattera, la iena si mise di nuovo a correre e a urlare. In preda all'eccitazione scavalcò i resti della zebra, puntando Orange Juice. P la diede per spacciata senza nemmeno concederle il beneficio del dubbio. Ma la sottovalutava. Non aveva preso in considerazione il suo coraggio. L'orango colpì la iena con un pugno alla testa. P esultò. Sì! Sì! Ma l'autodifesa di Orange Juice non durò a lungo. No! No! No! No! La iena saltò sulla panca e azzannò Orange Juice al collo prima che lei potesse reagire. Poi alzò lo sguardo verso P. Aveva la bocca sporca di sangue. Vicino a lei giaceva Orange Juice, addossata alla zebra morta. Dal collo reciso continuava a sgorgare sangue. P doveva contrattaccare se voleva salvarsi. Avanti! Avanti! Avanti! Prima di scagliarsi contro la iena, abbassò brevemente lo sguardo. Improvvisamente si accorse di cosa c'era ai suoi piedi. La tigre Richard Parker. Era nella scialuppa. Era rimasto nascosto, stordito dalla nuotata e forse dai tranquillanti. Ora si era alzato ed era emerso dal suo nascondiglio. Si trovava a meno di 5 metri da P. Era enorme. La fine della iena era vicina, e anche quella di P, che però rimase dov'era, impietrito, completamente rapito dall'azione che si svolgeva di fronte a lui. Successe quasi in silenzio. Il fiammeggiante carnivoro sbucò da sotto l'incerata e raggiunse la sua vittima. La iena si arrese senza un guaito né un mugolio, e Richard Parker l'ammazzò senza il minimo rumore. La iena non iniziò neppure a combattere. Le fauci di Richard Parker si richiusero intorno al suo collo. La iena ebbe solo un fremito. Era finita. Fine primo tempo. Il secondo tempo di Vita di P, domenica prossima, alle 20:15. Thank you.